ragazzini era normale non avere soldi. E prima di ordinare e controllare il portafogli, guardavamo le vetrine con occhi enormi. Sull'autobus che dal centro ci riportava ai bordi. Tu andavi bene a scuola, io con la testa in aria ero un asino che vola. Poi sarà il mondo del lavoro che ha mentito la tua laurea e i miei sogni mantenuto la parola. Ma questa sera andiamo in disco, entriamo con il timbro. La mia ragazza porta due sue amiche single. Con questa boccia ci paghi l'affitto, scorcare ancora meglio che essere ricco. Crimine. Cuori un mutuo in banca. E invece adesso l'alcol scorre a fiumi e solo donne di facili consumi. In un museo dell'ostentazione colleziono quadri della situazione. I ricchi all'ingrasso, le fighe all'ingrosso, selezione all'ingresso. Ti sembro depresso ma riscatto sociale. Solo ai ricchi è concesso il lusso di non pagare. Come il crimine. Salvare il mondo dalle stelle alla strada. Essere troppo buoni non paga.